Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ben trovati a Ferribot, sono Enzergante, il traghettatore. Cominciamo subito con una bella notizia per il mondo del no profit che soffre, come dire, da tempo immemorabile di crisi di identità. Nessuno sa infatti esattamente qual è la situazione del no profit, quante aziende, in quale zona, con quali indirizzi. Bene, finalmente l'Istat di Giovannini ha deciso di colmare questa lacuna e quindi nel corso del 2011 si farà il censimento del no profit. L'anno prossimo sapremo finalmente qual è la fotografia di questo, del cosiddetto terzo settore. Fervono i preparativi della giornata mondiale della lentezza, quindi è un termine assolutamente originale e non vogliamo perdere tempo, tanto per restare in tema. Chiediamo subito a Bruno Contigiani, fondatore e presidente dell'associazione L'Arte del Vivere con Lentezza, che cos'è? Grazie Argante, la giornata della lentezza è un momento di riflessione sui danni economici, sociali, culturali, affettivi che un mondo vissuto a velocità folle sta creando, quindi un po' in tutta Italia, in tante città d'Italia e un po' in giro per il mondo ci saranno iniziative per richiamare alla gente l'attenzione dell'utilità di rallentare un po', rallentare ogni tanto in tutti i nostri aspetti della vita. È la quinta giornata mondiale che tu celebri con la tua associazione, i temi di quest'anno ambiziosi e altruisti, Slow Life, Green Life, Better Life e Vivere con Lentezza si proietta a New York addirittura. Cosa farete a New York? Sì, a New York siamo con manifestazioni all'aperto, a Union Square, a dare le multe ai passanti frettolosi, a cantare l'opera lirica con una performance anche di Liuba e poi saremo alla New York University il giorno dopo a parlare di We Economy, cioè le tre P per una nuova economia, People, Profit and Planet. Nel frattempo abbiamo anche premiato con un premio ideato da Francesco Argenti Adrian Benepe, che è praticamente il sacerdote della città, cioè il custode di tutti i parchi cittadini per quello che sta facendo per migliorare la vita dei propri cittadini. Ci è stato delegato da Michael Bloomberg, che è il sindaco della città. Grazie Bruno Contigiani, sentiamo rumori sottofondo che non fanno intravedere lentezza per il traffico, ci viviamo tutti. In bocca al lupo per la tua iniziativa. E a proposito di lentezza, entriamo in un mondo che invece è velocissimo, forse fin troppo. Parliamo del web e di un'iniziativa importante del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano che hanno deciso di avvicinare gli educatori all'uso del web per poter poi trasferire questa conoscenza agli studenti, quindi il web che va in cattedra. Questa iniziativa riguarda per il momento le città di Milano, di Brescia, di Lecco, di Pavia e di Varese, grazie alla contribuzione di Microsoft e dell'Associazione Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. L'obiettivo è dare in mano gli strumenti agli studenti, ma anche ai loro insegnanti, per un uso più consapevole della rete, in particolare dei social network che, come sapete, sono assolutamente nelle corde dei più giovani. E chiudiamo con un'iniziativa che arriva da Roma Termini. Qui esiste, dovete sapere, un binario 95, si chiama Help Center ed è gestito dall'amministrazione comunale, all'obiettivo di accudire nel cibo, per dormire, per l'igiene personale, per l'assistenza in generale, i clochard che ruotano attorno alla stazione centrale di Roma Termini. Ebbene, da questo binario 95 parte addirittura l'iniziativa editoriale, un libro di ricette. Martedì sembra quasi un gioco di parole per persone che spesso non hanno come andare a tavola, ci sarà una cena vera e propria per presentare il libro di ricette nate dall'esperienza dei clochard. Abbiamo finito, vi ricordo che potete scrivere a ferribot@radio24.it per inviarci le vostre notizie e osservazioni sulla trasmissione. Ferribot va in onda alle 6.50 del mattino e alle 13.55 di sabato e la domenica alle 6.50 e alle 14 in replica. Grazie ad Anita Panizia redazione e a Pietro Lacorte in regia.